che sono un po' particolari. Voglio dire che siccome io dipingo anche, ma chi mi conosce lo sa, dipingo anche, allora ho unito alla poesia, ho unito il dipinto. In più poi io leggo con la mia voce, leggo le poesie, che vanno lette in un certo modo. Non si può leggere, io mi ricordo sempre che quando andavo a scuola avevo una professoressa che addirittura mi ha fatto odiare Leopardi, perché la leggeva talmente male che io ho detto, ma com'è possibile che sia un grande poeta? Poi quando invece ho riletto Leopardi col senno di poi, voglio dire, naturalmente non è che modestamente non è che mi voglio paragonare, per carità, di Leopardi, però capisco che la poesia va letta in un certo modo, sì, per coinvolgere le persone, perché anche io scrivo sì per me, ma penso che anche le persone che mi ascoltano, che leggono i miei libri, in qualche parte, in qualche momento ci si ritrovino e hanno le mie stesse sensazioni, le mie stesse, i miei stessi sentimenti, ecco. Tanto è vero che nel mio ultimo libro, l'ultimo che dovrà essere edito quanto prima, il titolo è Le mie parole al vento. Cosa vuol dire le mie parole al vento? Vuol dire che io le dico così, al vento, però chi ci si ritrova, chi la pensa come me, ha gli stessi miei sentimenti, e i sentimenti sono immortali. Non è che io scrivo perché devo diventare chissà chi, per carità, non ci penso nemmeno, soltanto che direi una brutta parola, non che voglia fare proseliti, voglio accomunare le persone che si sentono unite non per simpatia, per gli stessi sentimenti che sono immortali, che sono uguali per tutti. Universali. Universali, proprio. Bravo, esatto. Mi hai detto la parola giusta. E tutti ci si ritrovano. Naturalmente io penso alla mia situazione, ma le persone che mi ascoltano adoperano le stesse parole per le loro situazioni. Infatti tanta gente mi dice, guarda, anch'io ho gli stessi sentimenti, e avrei detto così come hai detto tu, se ne fossi stata capace. Con le mie parole al vento, in questo caso non ha come titolo un'accezione negativa, ma esattamente, certo, l'opposto. Cioè io le disperdo al vento perché qualcuno le prenda e esatto, le faccia esatto, su. Esatto. Ma la tua prima opera è... Sì, Ricci di mare. Sì. Ma è una cosa stranissima. Io l'ho pubblicata nel 2000 e ancora oggi, anche se vende su internet, non so chi, ma io sono abbastanza contenta, non mi interessa. Non è che l'ho fatto perché mi dovevo diventare ricca, per carità, infatti no. Però ancora suscita sentimenti positivi, ecco, soprattutto sentimenti, perché anche l'odio è un sentimento, no? Però mi appoggio ai sentimenti positivi. Parlo dell'amicizia, parlo dell'amore, parlo l'amicizia soprattutto per me è importante perché è un po', non c'è un amore se non c'è come sottofondo, come base, l'amicizia. Se c'è l'amicizia, certo, c'è anche l'amore resiste, perché l'amore può finire, ma l'amicizia resta. E quindi magari anche due persone che sono unite da tanti anni, si sa come sono i sentimenti, nelle varie fasi della vita, all'inizio c'è questa attrazione, alla fine della vita, voglio dire, quando oramai si raccolgono i frutti, e che cosa si vede? Si vede che fra moglie e marito quell'amore che c'era, quell'amore che è diventata, è restata l'amicizia fra di loro, e quindi un sentimento più forte dell'amore, l'amicizia è così, dico io, che l'amicizia è un sentimento più forte dell'amore. L'amore può finire, l'amicizia non deve finire, non può finire, se finisce non era amicizia. Però i veri amici non sono tanti, appunto. Certo. I veri amici contano, sono molto, sì, pochi, sì. Io dico la verità, nei miei libri c'è sempre un accenno all'amicizia. Infatti mi piacerebbe poi in seguito, nel corso della trasmissione, leggere quello che ho scritto, perché ho degli amici io da tanti anni. Eravamo insieme ragazzi, facevamo parte di una comitiva e ci siamo sposati quasi fra di noi. Poi naturalmente è come degli uccelli su un ramo che uno sparo fa disperdere, ecco, io dico così, mi sembra così, ci siamo dispersi, ognuno ha avuto la sua vita, ognuno ha avuto... Adesso che siamo un pochettino più in là con gli anni, raccogliamo i frutti di questa amicizia. Ci si ritrova, vero? Sì, sì. Ci si ritrova. Ma il bello è questo. Io, per esempio, ho un'amica che a un certo momento è andata all'estero, è andata a Francoforte a vivere. E lei, e non, quasi non ci siamo più viste, non ci siamo più sentite, perché lei aveva la sua famiglia, io la mia. Le situazioni, sai che cambiano. Adesso che... ci si ritrova, lei è sola, forse, ecco, proprio forse questo ci si ritrova. Abbiamo tempo a disposizione. Ecco, il tempo a disposizione. E ci si ritrova. E allora ricordiamo i tempi passati, perché io non posso con un'amica di adesso andare a raccontare, sai, ti ricordi quando ero ragazzina, io facevo così. Con loro no, perché abbiamo avuto l'amicizia ancora ai tempi della gioventù, e basta poco per... Una mia amica abita a Mestre, per esempio, e con lei ci telefoniamo abbastanza spesso e non manca mai quella parola, quel ricordo, ti ricordi quella volta? Ecco, e ci sembra di ritornare indietro nel tempo. Come dico, ecco, voglio dire, tutto questo dico perché nella vita, per me almeno, ma credo che per tutti, quello che vale, quello che ha valore sono i sentimenti. I sentimenti resistono. E poi nel tempo, il passato fa parte della nostra vita. Come no? Perché se non ci fosse stato passato, non ci sarebbe neanche il futuro. Anche certo. Per tutti è così. Non è soltanto per me, ecco perché. Allora, spero, intanto, almeno. Voi cos'è? Non lo so, hai intenzione di passare un po' in rassegna? Perché tu hai scritto anche dei racconti. Sì. Ho scritto Sotto la cenere, con questi racconti Sotto la cenere sono un po' strani, cioè alla fine, cioè io racconto una storia così e poi alla fine il finale è a sorpresa, che nessuno si aspettava quel finale così, mi sono divertita. Hai scritto il vestito questo. A pallini, hai scritto quello, sì, delle, sì, del sacco, sì. Quello lì. Sì. Anche dei ricordi di guerra. Perché io ho scritto la storia del capotto, ecco, il capotto lì, di lana, di pura lana, ecco, sì, perché in tempo di guerra era così, non si aveva niente, insomma, e racconto queste cose, mettendo tutto in terza persona. Beh, non certo. Mi sono presa le responsabilità, ecco, voglio dire. Della, anche perché tutti... quello del sagre, no, che si svolge in chiesa, non mi ricordo più come si chiama. Ah, quello che... No, quella veramente è una storia, guarda, ti dirò, che una mia amica è andata, tempi passati, qui si parla di tanti anni fa, è andata a Riccione, in villeggiatura, e aveva incontrato un bellissimo giovanotto, ma non dico proprio quelli da sogno, così, no? Ecco, e poi alla fine lei ha intessuto con lui una specie di amicizia abbastanza, sì, una volta era così, insomma. Platonica, diciamo. Ah, sicuramente, una volta era così. E allora, niente, quando si sono salutati, lei doveva partire, poi alla fine, il finale è veramente a sorpresa. E chi lo vuol sapere va a leggersi. Allora, adesso che... prima della canzone ti leggi qualche poesia? Se vuoi, guarda, io ho quello che ho aperto davanti al libro, benissimo, per caso. È Il quartierino ameno. Troverò in paradiso un quartierino ameno, piccolo, due vani, che abbraccia l'infinito. Fra gli angeli in coro, affacciata al balconcino, mi apparirà il mondo come un acquerello dipinto dal Signore. Anche in questa dimensione i monti, i prati in fiore, il mare e le farfalle sono immersi nel colore. Rifugiandomi nei sogni, con tanta fantasia, dipingerò col cuore il mondo a modo mio, come fossi in paradiso, nel quartierino ameno che abbraccia l'infinito. Molto bella, sì. Allora, adesso ci fermiamo per la seconda canzone. Adamo, e ci canta, ho scelto una delle sue belle canzoni, La tua storia è una favola. Avevo per me solo un angolo di cielo, avevo la mia notte, avevo le mie stelle, avevo una rosa, era tutto il mio mondo, una rosa timida, rosa color di me. Sincero nella tua ingenuità, vai avanti con la tua storia per curiosità. Un giorno la rosa ingenua domandò: se mi tolgo le spine mi porti via con te? La vidi tanto bella, ma quando alzai la mano svanì la bella rosa, il mondo si fermò. Eccoci qua ancora in studio con la nostra Rosa, che adesso ci racconterà qualche altra cosa e ci leggerà delle poesie sue. Ecco, parlando di amicizie, no? Ecco, io ho scritto sempre, in ogni mio libro c'è qualche riferimento all'amicizia, come ti ripeto ancora, io l'amicizia per me è un sentimento più forte dell'amore, più forte, è un sentimento immortale che hanno tutti, che non so spiegarmi ancora, ma probabilmente certamente... latente in molti, certo, latente e non conosciuto, diciamo, a sufficienza. Perché chi ha un amico si sente più ricco, si sente, come dico io, una regina. Decisamente. Ecco, allora, preziose amicizie, dove siete amici di un tempo felice? Strade, destini diversi ci hanno portato lontano. Ora ognuno di noi vuol fare a ritroso lo stesso percorso per tornare a quel bivio da dove siamo partiti. Amici ci siamo lasciati per ritrovarci fratelli, parenti acquisiti mai dimenticati. Alcuni si sono fermati, si sono ritrovati in un mondo irreale all'ombra dei cipressi. Si raccontano storie di tempi passati, ma non resteranno soli. Ci aspettano per riallacciare e continuare care, preziose amicizie nate al tempo della gioventù e finire con noi in evasi discorsi rimasti a metà. La sintesi, e ce n'è un'altra vita, ancora, la sintesi, leggo subito che c'ho lo stomaco. Questo è quello del libro che ho appena... Questo invece è del libro che dovrà essere edito quanto prima, adesso vediamo quanto, ecco così. Preziose, pietre preziose. Non sono una regina, ma tale mi sento. Pietre preziose rare, incastonate nella corona che mi porto appresso. Ogni gemma ha un nome. Qualcuna è caduta per un destino avverso nel corso della vita, ma il ricordo è rimasto indelebile nel cuore. Di care, preziose amicizie è composto il mio diadema, gioielli senza prezzo, di incalcolabile valore. Continueranno a scaldarmi il cuore e farmi compagnia per tutta la vita e oltre. Queste sono bene. Cose, questo fa parte del nuovo libro che non è ancora pubblicato. Ah, questa fa parte del nuovo libro, sì, del sì. Nuovo libro che invece la prima che la prima invece fa parte del libro Fragranza di menta. Ah, ecco, Fragranza sì. Di menta, sì. Certo che la poesia ha la capacità di sintetizzare, di distillare certo, in poche sì. Parole ecco. una miriade di se sentimenti, proprio di sfaccettature e compagnia. Sì. Se ci si riesce, se ci si riesce certe volte è difficile. Sì. Non è molto facile. No. Certo. Ecco. Mm-hmm. Ecco, volete che vi legga qualcosa? Sì, certo, certo, prego. Ma insomma, dovevi leggere una poesia che hai detto all'inizio, ma non l'hai ancora letta. Cioè, non mi ricordo più adesso. Una cosa che ti ricorda, la poesia di che ti ricorda. Presenze trascorse. Ah, ho capito. Da ricordare con leggerezza, diciamo, nonostante, nonostante tutto. Aspetta, adesso perdo tempo. Cioè, sì, naturalmente con calma. Per adesso, insomma. Certo, ecco. Certo. Vabbè. Vi posso leggere anche quello di un libro nuovo, forse. L'Aquilone. Perché forse sono reminiscenze del passato, della gioventù. Pensi all'Aquilone di Pascoli? È vero. È proprio il periodo adesso che si legge volentieri l'Aquilone. Perché, è vero. Sì. L'Aquilone, con strane movenze danzanti nell'aria, moderni aquiloni, seguiti da bambini con lo stesso piacere invariato nel tempo. Anch'io, come loro, seguivo i miei sogni attaccati al filo di poveri aquiloni realizzati insieme agli amici d'allora con fogli di giornale trattenuti da cannucce e colla di farina. Fluttuano nell'aria moderni fogli colorati. Con gli occhi appannati sono ancora sulla spiaggia, come allora corro dietro al semplice ingenuo aquilone come un bambino. Ah, bene, si senti ancora... Sì. Quando vedo questi aquiloni colorati così, mi ricordo che quando noi eravamo ragazzini non avevamo, a parte che non avevamo le stesse opportunità, voglio dire, economiche, ecco. Proprio per essere chiari, e ce lo facevamo noi, prendevamo i fogli di giornale con le cannucce, la colla di farina e ci formavamo così. E così correva lungo la spiaggia con questi attaccati a quel filo di aquilone. Anche tu lo facevi, Antonio? Vero? Avete fatto anche voi? La soddisfazione era anche grande, perché era un qualcosa che si faceva con le proprie mani. Certo. Quel gusto della manualità che oggi si sta un po' perdendo, purtroppo, e che invece è essenziale. È vero. È essenziale per uno sviluppo completo del bambino. Ma a un certo momento sono più, come dire, più... hanno più valore quelle cose fatte con le proprie mani, invece vero, comperare queste cose che hanno fatto altri non ti fanno sognare, sì, invece se non tu danno fatto... proprio la misura dello sforzo per raggiungere un risultato. È vero. Vedi adesso, per carità, io faccio vedi come ci si intende quando si parla di queste cose, certamente. Perché sono cose, sono sentimenti universali, anche me. Adesso lo fanno i bambini, certamente. Soltanto che li trovano già fatti, perché i genitori li comprano già fatti, vanno questi che vendono e vanno in giro, ma non è la stessa cosa, no, perché tu l'hai fatto col tuo sentimento, col tuo, e quindi i tuoi sogni, corri dietro. È un'opera delle mie mani, è vero. È come quando le donne cucivano vestitini, c'è qualcuna che cuce ancora, che fa con le sue mani, non so, qualche vestitino, qualche paio di... Ma mi ricordo che si giocava con le bambole. Si faceva i vestitini. Adesso con la storia di prendere, come si chiama, la Barbie, comprano tutti i vestitini, sì. Ma non è la stessa cosa. No, noi no, con i cencini, li chiamavamo i cencini quando eravamo... E facevamo i vestitini, ci si divertiva veramente anche troppo, perché sì. Io mi ricordo che ero una giovinetta e facevo grandi progetti. Investimenti sul futuro, questo è. Perdoni, un giocattolo era una cosa grande. È questo che si sta riscoprendo, diciamo, in certo modo. Quella fatica. Il piacere della fatica per poi ottenere un risultato. È vero. Una volta giocavano in piazza i bambini con le biglie Adesso non vedi più che baete, ma si giocava con, io mi ricordo anche addirittura con le foglie, si attaccavano con gli stecchini, con gli stecchi addirittura, si facevano i vestiti, ci facevamo i vestiti con i pezzettini di piatti rotti che trovavamo per la strada, giocavamo alle signore. L'esercizio della fantasia che è fondamentale. È vero. E dietro a quelle cose poi venivano fuori delle cose stupende, dei sentimenti. Anche qui si ritorna sempre al fatto. Certamente, dei sono ricordi, no? Sempre bellissimi in materia. Sì. Va bene, allora ascoltiamo. Altre poesie. Adesso, siccome si chiama Fragranza di menta il libro, adesso dico perché, no? Fragranza di menta. Beh, certo, devi spiegare. Adesso perché. La spiego prima, forse, perché nei miei ricordi, io ricordo sempre i miei nonni. I nonni sono importanti, sì. E lo sa chi ha dei nipoti, che forse dedicano più tempo ai nipoti che ai propri figli, perché i figli... Anche senza forse. È vero. E poi i nipoti sono cari, molto cari. E lo dico io che ho delle nipoti alle quali sono molto affezionata. Ecco, e... Coi nonni andavamo, mia mamma, mio papà mi lasciavano da loro, no? E io stavo volentieri, anche perché te le davano tutte vinte. Sì. Io era, mi ricordo bello, un sì. Episodio. Una volta mia nonna aveva conservato per suo figlio, per mio padre, una mela bellissima, grande, era veramente stupenda questa. E la teneva là, non si poteva toccarla perché quella non si tocca, di tuo papà non si tocca. Quando è arrivato mio padre, mia nonna ha consegnato la mela a mio padre. Mio padre ha preso la mela e ne ha fatto quattro parti, due per una, un po' a me e un po' a mio fratello. Allora mia nonna si è risentita, come? Io l'ho conservata per te? E allora mio padre mi ricorda ancora la risposta, perché tu l'hai data a tuo figlio, quello che ho fatto anch'io, prendendo spunto da quello che tu hai fatto e ho imparato da te. Una risposta pertinente, devo dire. E io quella mela non me la ricordo, me la ricordo dopo tanti anni, però sì. Non è la mela in se stessa, ma è il sentimento. È il gesto con la quale si offre. Sentimento che c'è dietro quella mela. C'è più gioia nel dare nel che dare, nel ricevere, chiaramente. Sì, questo è sempre valido, è sempre valido, chiaro. Allora, fragranza di menta, il caso, le attese, le mie solitudini, ricordi, rimpianti, guidano i miei passi a ritroso nel tempo. Si accendono le luci nel vicolo deserto. Persiste nell'aria fragranza di menta, di colorati garofani coltivati sul balcone nei vasi di conserva. Mi emoziona trovarmi nell'incanto della casa, nella penombra antica, al fioco raggio di luna, mi parlano le mele in fila sull'armadio. Fra le macchie di umido, sui muri scrostati, dalle foto sfocate, mi seguono gli occhi, mi parlano i nonni dalla cornice ovale. Cioè mia nonna aveva, mi ricordo sempre, un balconcino. In questo balconcino, nei barattoli grandi di conserva, con la terra dentro, lei aveva gli odori, aveva la menta, aveva il basilico e dei garofani insieme, no? Pure. Ecco, e io quella fragranza di menta, quella fragranza di mele in fila sull'armadio, che mia nonna teneva sopra l'armadio della cucina, sì. Teneva queste mele e mi sono rimaste nel cuore. E dico la verità, e poi si usavano allora le fotografie che mettevano in salotto con la cornice ovale da una parte la nonna, certo. E da una parte il nonno, esatto. Così. E io nella mia mente, dopo tanti anni, chiudendo gli occhi, rivedo quella situazione, quell'atmosfera, e siamo sempre là. I sentimenti ritornano verso i nonni. Io potevo veramente, invece di fragranza di menta, potevo dire i sentimenti sono immortali, i sentimenti sono importanti. E comunque è la traduzione, diciamo, in parole di questo, del concetto. Adesso ci ascoltiamo la terza canzone, cantata da Claudio Baglioni, e ad ha per titolo Porta Portese. Si è svegliato già il mercato, in licenza son tornato e sono qua per comprarmi dei blue jeans al posto di questa divisa. E stasera poi le faccio una sorpresa. C'è la vecchia che ha sul banco foto di papà Giovanni. Lei sta qui da 40 anni o forse più. E i suoi occhi han visto re, scannati, ricchi ed impiegati, capelloni, ladri, artisti e figli di... Porta Portese, Porta Portese, Porta Portese, cosa avrai di più? Vado avanti a gomitate tra la gente che si affolla, le patacche che ti ammolla quello là. C'ha di tutto, pezzi d'auto, spade antiche, quadri falsi e la foto nuda di Brigitte Bardot. Che roba usata, ma chissà chi l'ha portata, quanto vuoi. Quella lì non è possibile che lei insieme a un altro, non è certo suo fratello quello, e se l'è scelto proprio bello, ci son cascato come un pollo. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite, alla quale lasciamo la parola per grazie, un altro tour di sentimenti ed emozioni. Sentimenti, veramente, sì. Sentimenti. Ecco, il tempo che passa. Tutti noi, no? O insomma, tutte le mattine io mi alzo e dico, beh, insomma, bene o male un altro giorno ce l'ho ancora. Ecco, fin qua ci sono arrivata. E io ho scritto così, il tempo che passa. Ladro il tempo, inesorabilmente. Mi ruba ogni istante la vita. Impari e ingiusto il tiro della fune, vince sempre su di me, succube, indifesa. Il debole va protetto, il ladro punito, ma il tempo no, lui no, non paga, pago io. È una verità. E poi un'altra cosa, una volta ero a Venezia, ed era una giornata come quella di oggi, pioveva, e veramente Venezia è bella quando c'è il sole, perché risplende, ci sono le luci, ci sono i marmi, che, insomma, l'atmosfera di Venezia è unica al mondo, non ce n'è un'altra città come Venezia. Mi sono trovata in questa giornata piena di pioggia, e dal vaporetto, guardando fuori, con molta tristezza dico la verità, a un certo momento mi passa accanto al vaporetto passa una gondola con tanti ombrelli aperti. Ho detto, mamma mia, ho fatto una riflessione, probabilmente il gondoliere attaccato alla sua barca cerca di proteggere l'interno, no? Probabilmente sarà così. E a un certo momento mi viene una bella sorpresa. E adesso vi leggo, così anche voi sarete un po' coinvolti da questa cosa che veramente... Allora. Come è intitolata la prima? È intitolata... aspetta che mi si appiccica la parte. È intitolata Piove a Venezia. Com'è triste Venezia quando piove. Nella nebbia poche gondole vedo frettolose scivolare, altre son ferme ad aspettare il sole. Solo una, al posto dei turisti, a spasso porta ombrelli aperti. Il gondoliere, tutt'uno con la barca, cerca di proteggere l'interno. Sono cinesi, turisti ad ogni costo, meglio che il niente, fra lo sgocciolio, ammirano Venezia soddisfatti, cantando «O sole mio» sotto gli ombrelli. Perché una sintesi italiana proprio. Allora, questi cinesi, no, vengono, gli stranieri in genere, no, io ho detto i cinesi, certo, per dire... perché veramente quelli erano cinesi, però quando vengono gli stranieri non hanno occhi, vorrebbero averne 10 per portarsi indietro, sì, tutto quello che vedono. Panorama, sì. Vengono per poco tempo, la giornata non era favorevole, ma loro il tempo è quello, non importa, non importa. Cercano allora di fare necessità virtù, naturalmente. Si proteggevano, sì, con gli ombrelli aperti, ecco perché non è che il gondoliere si guardava la sua barca. Sì. Erano cinesi turisti ad ogni costo, meglio che niente. Fa lo sgocciolio degli ombrelli, ammirano Venezia soddisfatti cantando «Oh sole mio», che belle, sotto gli ombrelli. Eppure sono... cioè, ma gli stranieri, guarda, io ho girato il mondo, dico la verità, però Venezia io non l'ho mai vista da nessuna parte, nemmeno il ricordo, nemmeno, anche se ci mettono le gondole, guarda, non è la stessa cosa, Venezia è unica. Ma dicono che in Olanda, e noi siamo fortunati ad avere tante cose in Italia, che tante volte... che a volte snobbiamo, purtroppo, per nostra ignoranza. Eccetera. Hanno ricostruito addirittura cose nostre all'estero, ma queste sono altre cose. Certo, sono altre ma dicono cose. Che Amsterdam è una piccola Venezia. Amsterdam. Ma neanche per sogno, no, assolutamente. Non c'è paragone, ecco. No. E adesso vi vorrei leggere una cosa un po' così, forse qualcuno ci si ritrova, non lo so, io ve la leggo poi. Vorrei, ti ho accompagnato quando sei partito, io ero con te, vorrei non soffrire, ma non posso, vorrei dirti addio, ma non posso. Vorrei non piangere, ma non posso. Vedo colline ridenti, il mare azzurro, come sempre. Cammino fra la gente, la stessa che incontravo quando ero con te. Vorrei poterti dire domani, ma tu non ci sei. Un po' così, sono sempre sentimenti. Sono cose che assolutamente servono, perché la memoria è quella che ci fa essere vivi. Sì, è vero. Bisogna farsene una ragione, si dice. Esatto, nella esatto. mia memoria ci sei, quindi non... tante quindi, volte quindi si dice ci sei, quindi sì, esisti, quindi ci sei, quindi esisti, esatto. E mi fai compagnia, mi sei... e quindi ecco, ma è proprio vero. E poi volevo dire, siccome questo è sempre del libro Le mie parole al vento, allora io dico così: le mie parole al vento, vorrei librarmi in alto oltre gli alberi, raggiungere voli d'aquile e spaziare su orizzonti d'estrema libertà, per dire al mondo che ci sono anch'io, disperdere nell'infinito i miei umili versi, frammenti d'anima, intimi pensieri, attimi di piacere, momenti di gioia, di dolore, di mistero affidate al vento, perché qualcuno col mio sentire le catturi, rielabori e le faccia sue. Questo ah, bello, questa che me l'hai letta ancora, mi pare. Queste le parole al vento, parole al vento, non perché siano disperse, ma perché siano catturate da altri. Sì, esatto, non è che io le ho fatte al vento perché le butto via, esattamente. No, perché aspetto che qualcuno le catturi, le prenda e col mio sentire, con i miei sentimenti naturalmente, le faccia sue. Io non è che le voglio mio per carità, no. Le rielabori, secondo il suo modo di vedere, il suo modo di sentire, il suo modo di amare, ecco così. Io ricordo ancora il tuo primo libro. Ricci di mare. Sì, e sai che su Skype si... ci sono ancora, su internet c'è ancora. Io ho messo una frase dell'Effimera, l'ho messa su... E qual era? Su Skype. Ecco. La gioventù è come l'effimera. Ah, dura un battito d'ale. No, la bellezza della gioventù è come l'effimera, dura un battito d'ale. Ecco, la bellezza dell'anima è quella dell'anima è per sempre. Sì, ecco, messo questa frase nel... E poi anche un'altra che forse è importante, non so, anche del passato, non so in quale libro, adesso non me lo ricordo, però c'era il sogno. La realtà è amara, crudele. Chiudi gli occhi e sogna. E poi inventarla la vita e accettare per vero quello che esiste solo nella fantasia. Per essere felici? No, per non morire. È vero, sì. Tante volte la realtà, tutti quanti noi, non è che la vita di ognuno sia più bella dell'altra, ma perché io così e gli altri invece no, non è vero. Ognuno ha le proprie... Ognuno ha le sue. Per fortuna non sono sempre uguali, voglio dire, che esatto, sarebbe ancora peggio, perché oltre le mie anche quelle degli altri. Esatto. E allora io me la invento la vita e accetto per vero quello che esiste nella fantasia. Non è vero, tante cose che io scrivo magari non sono vere, ma nella mia fantasia sono vere e vorrei che fossero così. Non è vero, però questo mi consola. Ma per essere felici, certamente la felicità non esiste, ma certe volte questo mi serve per non morire, perché si può morire anche di dolore, ma bisogna stare attenti, bisogna reagire, bisogna... Questo me lo dico sempre, perché ho la vita di ognuno. Anche un bambino che piange perché ha perso la palla, per lui è un grande dolore. Bisogna rispettare quel dolore. Sì, sì. Il mio è più grande del tuo. Tu sei felice e io no. Non è vero, non è vero. Sono persone che parlano e persone che dicono le stesse cose, se le tengono dentro e sono più dolorose, perché molto, se si riesce, molto più. È vero, no? Se uno riesce a sfogarsi e a dire, esatto. Certo, non è che tu incontri la prima persona e dici, sai, io qua, no, assolutamente. Però la no. Solitudine e l'incapacità di comunicare sono la cifra del nostro tempo, vero, e vediamo quali vero, tragici esiti a volte hanno. Io adesso vedo tante persone in quest'epoca, una volta era diverso, perché le famiglie erano più riunite, erano... Adesso si disperdono e si trovano tante volte delle persone anziane che sono sole, ma sole, sì, sono in compagnia dei ricordi, tutto quello che vuoi, però si ha bisogno. È vero? È perché sono siamo soli. Passati dalla comunità, hai capito, che era in epoca preindustriale, alla società che è quella attuale. E la società sta insieme solo se ci sono dei vincoli di interesse e non di sentimento. Nella campagna tutti i fratelli erano vicini, avevano quelle case patriarcali dove un appartamento c'era l'altra cognata. Si sapeva di dover convivere perché era necessario, assolutamente. Sì. I vecchi erano presi in considerazione. Un'enciclopedia vivente? È vero. E perché sono importanti i vecchi. E invece si tende a dire, ma tanto quello capisce niente, oramai. È un grave errore. Si sa che si va a sbattere, come succede evidentemente. Hanno esperienza. Sì. E non dire no, i tempi sono cambiate le modalità, ma non i sentimenti sono sempre quelli, le cose sono sempre quelle, non cambia. Io quando mi sento dire, ma bisogna che ci siano dei presentatori giovani in televisione, non bisogna che sia giovane, non è che la gioventù da sola sia un sinonimo di valore o di qualità o cose carità, di questo io tipo. Rispetto, però se una persona di una certa età può dare, certo, perché non deve dare? Ma certamente, è così. Anche per esempio io vedo in televisione, no? Tante volte vedo, adesso dico una cosa che mi rendo conto non tutti mi potranno dare ragione, e forse è vero, non è che io ho in mano la verità, però quando vedo che si interessano di politica importante, perché non si tratta di una famiglia, cioè voglio dire il governo è fatto di tante famiglie, però che parlano di cose più grandi di loro, ragazzine. Sì, avranno fatto l'università, per carità, nessuno dice, sapranno tante cose, sapranno chi è Giulio Cesare, sapranno chi è, per l'amor di Dio, però non hanno esperienza, cioè uno che ha esperienza sa, no? Può dare il suo apporto, certamente. Creiamo un'altra canzone, Rosa, adesso, perché? Allora, ci ascoltiamo, Mina... Antonio, un cielo in una stanza. Sì, ma racconta perché. Mina, perché è il suo 75esimo compleanno in questi giorni, diciamo, quindi è una figura di spicco nel panorama musicale italiano e non solo. Certo, 75 anni anche lei. Non sono pochi. No. Allora, di Mina, cantata da Mina, ci ascoltiamo Il cielo di una stanza. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche della nostra trasmissione con la nostra ospite, alla quale lasciamo la parola. Allora, sempre riportandomi a quello che dicevo prima, no? Dell'aquilone, i giochi che si facevano quando si era bambini. Che poi è una cosa strana, più il tempo passa, più si ricorda il passato. Prima magari non ci si pensava, ma adesso è vero. E ogni tanto chiudo gli occhi e mi rivedo. Forse per il desiderio di voler tornare indietro, ma no, non vorrei tornare indietro, io mi basta quello che ho avuto. Giochi infantili. Se avessero parole, se potessero parlare, i cortili delle case che ci videro bambini. Si giocava insieme, a campana, a rimpiattino, a saltare con la corda. Semplici eravamo, ingenui i giochi. Quanti ricordi, tanti rimpianti. Beata fanciullezza, non correva di più per essere felici. E infatti, effettivamente, bello, i bambini giocavano in cortile. Adesso non ci sono più nemmeno i cortili, o ci sono i cortili ma non ci sono i bambini. Esatto. Non ci sono. Oppure i cortili, ci sono i regolamenti condominiali che non permettono, non si può giocare con la palla, giocare, perché esatto. Quegli altri fanno rumori, i bambini insieme fanno rumori pomeriggio, e anche per le strade, quanto si sentiva in chi ragazzi. Ma di la verità, era una cosa bellissima. Era anche d'estate, per esempio, ma prima delle finestre. Quello che dico io, lo dite anche voi, è così o no? Ma io lo dico sempre, io rimpiango di non sentire. I bambini dove sono? Dove sono adesso? Davanti alla televisione sono i bambini. Sono diventati le badanti, come si dice? Purtroppo, no, le badanti, come si chiamavano? Le balie elettroniche. Cioè, si fanno compagnia così. Ma com'è possibile? Invece ci si ritrovava con gli amichetti di allora. Oh, mamma mia, in piazza, così si giocava. Certo. Era bellissimo, le sere d'estate erano stupende. Adesso non si gusta più niente. Questo, è vero, i bambini mi pare che sono... Io vedo anche persone, tante volte vado a mangiare fuori, cioè andavo magari prima molto più spesso che adesso, e vedevo nei tavolini due persone che dall'inizio alla fine li vedevi mangiare bene, tranquilli, ma non si dicono una parola. Non so se avete notato della convivialità, anche voi. Sì, sì, c'è questa perché? Specie di... Non ho mai capito. Anche io, se sono con un'amica, vado al cinema, non mi piace andare da sola, perché io devo sgomitare la mia amica che è vicino a me, perché devo dire e fare commento. Sì, certo. No, è qualcuno che ti dice silenzio, silenzio, è vero, no? Io certo. Se vado da sola non mi diverto. O no, non è così. Certamente così, sì. E insomma, comunque sì, ma anche per commentare la scena, e come no, se no non mi diverto, è vero, no? Certamente. È vero, la mia fiaba: in ognuno di noi immutato è rimasto un frustolo di fiaba non consumato dal tempo. Forse lo devo spiegare un po' prima. No, essere, forse sì, no. Sì. Oh, sì. Ma non lo spiego prima. Effettivamente noi, quando proprio dicevamo proprio adesso che col tempo ricordiamo più il passato che il presente, questo, ecco, siamo a Matusalemme, però voglio dire, il tempo passa, c'è niente da fare. E io mi ricordo che mi divertivo anche con i miei amici a correre sui prati. Non so se a voi è rimasta la stessa sensazione di correre su un prato. È la cosa più che ti dà l'idea della libertà. Libertà assoluta. Della libertà. Sì. La libertà. Ma in queste mattine d'estate belle. Di la verità. Oh, in mezzo ai fiori. È una cosa che con no? Quel profumo che una sì, volta c'era, sì, che adesso sì. Non senti più. E certamente è quello, mi è rimasto nella mente a me questo correre nel prato, cogliere i fiori. Avrei tanti episodi veramente della mia vita, qualche volta a te ve lo racconterò. Sì. Allora ricomincio la mia fiaba. In ognuno di noi immutato è rimasto un frustolo, un pezzettino, voglio dire, no? Forse una parola un po' inusuale che io non adopero e perciò lo spiego prima. Di fiaba, un frustolo di fiaba non consumato dal tempo. Sullo stesso filo di ragno c'è ancora la mia storia. Correvo sull'erba alta, con tanti fiori di campo traboccanti sulle braccia. Inseguivo farfalle dalle ali di seta per raggiungere miraggi che vedevo all'orizzonte quando avevo 20 anni. In quel campo di fiori si è fermato il mio cuore. Continua il mio canto, ricordando quei giorni. Nell'ingranaggio del tempo non ho ancora smesso di sognare campi inondati di sole, scogliere impreziosite dall'argento della luna. Come allora rincorro quel miraggio all'orizzonte, sempre più lontano, che vedo sempre con la mente e col cuore. E mi è rimasto questo pezzettino sì. Di... Poi devo dire che siccome io dipingo, questo non l'ho detto, accanto ci ho messo una ragazza di 20 anni che mi illudo, che ero io, ma è una cosa della mia fantasia, in un campo di fiori con tanti fiori di campo sulle braccia. La donzelletta che viene dalla campagna a giocare del sole. Ricordiamo leopardi. Grande. Però, per carità, non facciamo degli accostamenti che sono inopportuni. Ma voglio dire, lui pensava alla donzelletta col mazzolino di fiori, e io sì. Pensavo a me, che anch'io. Dunque, allora vedi che se io non voglio essere paragonata a leopardi, ci mancherebbe altro. Però voglio dire, gli stessi sentimenti di leopardi ce li ho io ce li hai tu, ce li hanno anche gli altri. Sì. Leopardi li ha detto in un modo che se avessi potuto l'avrei detto anch'io così. Anche tanti altri, tutti si ricordano di aver corso su questo campo di fiori, di aver corto dei fiori in campagna, una gita con i familiari, magari si ricorda con chi, magari col marito, magari con un amico, magari con un che ti devo dire, un amore giovanile, memoria, insomma, esatto. Ognuno poi lo mette dove crede più opportuno, dove gli fa più comodo, dove si ricorda, è quello. Se io riesco a provocare in altri gli stessi sentimenti che io ho provato, io mi reputo soddisfatta, esatto. Mi va bene. Hai così. Raggiunto l'obiettivo. Sì, l'obiettivo delle mio è questo. Gocce di memoria, direbbe sì. Giorgio. Non voglio essere isolata io con i miei sentimenti, no, ma voglio che altri, provocati da me, questa è la speranza, ecco, è la non contaminazione, è, che provocati da me abbiano gli stessi sentimenti che io ho provato e che ancora oggi provo. siamo esseri sociali, non lo anche, so. Se, io anche se purtroppo tante volte tendiamo invece... a rinchiuderci nel nostro poi voglio dire un'altra bozzolo, cosa diciamo. Che io non è che scrivo queste cose perché mi rivolgo a persone che di una cultura superiore, non oso, per carità di Dio, no, assolutamente, ma io vorrei parlare all'animo anche le persone più semplici. Tante volte io vi posso dire una cosa, questo posso dirlo, che io una volta ultimamente sono stata a Roma per un concorso letterario, va bene, vicino a me c'era una ragazza, voglio dire, avrà avuto l'età di mia figlia, ecco così. Insomma, alla fine su 2500 persone io ho preso il terzo posto, roba che non mi aspettavo nemmeno. Questa ragazza è diventata la mia più cara amica. Ancora oggi, pensa, io sono andata dalle parti dove lei abita e sono stata ospitata a casa sua, di un'affettuosità, di una... E allora io sono contenta di questo, cioè non voglio scrivere per poche persone, certo. È una ragazza molto semplice lei, è molto semplice, ma io voglio parlare al cuore, il cuore è uguale se non di più. È un linguaggio universale, musica, poesia sono linguaggi universali. È vero, la pittura, la poesia, io ho unito queste cose. E poi voglio dire un'altra cosa, devo ringraziare tanto anche il maestro Ielescu, perché il maestro Ielescu ha fatto per me, i miei libri ci sono, prima c'erano dei CD, no? Dove io a suon di musica parlavo e leggevo le mie poesie. Mm-hmm. Invece questo maestro mi ha dato credito e ha composto delle musiche che accompagnano le mie parole espressamente per me. Ah, ne sono molto grata. Questa è una cosa gratificante. E adesso invece ho trovato un'altra persona, non so se riuscirò, perché c'è una mia amica sempre dei tempi passati, la quale col tempo è diventata una concertista. Ah. E spero che quest'ultimo libro che io dovrò pubblicare, spero abbastanza presto, lei mi manderà il sottofondo delle sue esibizioni, voglio dire, le sue partecipazioni. Come accompagnamento, come colonna sonora, diciamo. Bravo. Ecco, la potevi saperla mettere... Sì, e poi ringrazio anche il signor Conca, che lui mi ha preparato i DVD, molto belli, naturalmente. Ah sì, difatti l'ultima volta hai presentato il DVD. Il DVD, anche sì. Questa volta penso di fare, due miei libri hanno il DVD, spero di fare anche questo, se non lo so però come saranno le cose, io non metto mai voi cioè, l'importanza è di avere dei traguardi, quindi questo traguardo è già anche diciamo sì, ecco, e allora, prossimo, cioè, quindi ci breve, sono... questo stimola naturalmente ad andare avanti, ci sono tre cose, speculare. C'è la poesia, la pittura, la voce, la musica, che praticamente dicono la stessa cosa, sì. Spero almeno, questo è il prisma, mio intendimento. Sono delle sfaccettature di un unico prisma praticamente, sì. Che trasmette tutto. Stiamo arrivando diciamo velocemente alla conclusione, scivolando così sulle ali dei ricordi, perché è un qualcosa, ricordi, sentimenti, è un po' un mix, un cocktail, sì, se vogliamo, molto bello, molto un bello. Cocktail, sì. Di memoria, un cocktail di futuro, un qualcosa posso... che ci possa sì, certo. No? siamo alle ultime battute, siamo alle considerazioni. Alle ultime considerazioni, quindi lasciamo magari spazio un'altra volta per io vi ringrazio, per ulteriori esibizioni, però devo dire che appunto sempre mi stupisce come la poesia abbia il potere di far sedimentare in modo veloce sentimenti, appunto emozioni, ricordi, e uno pensa di averle sempre sentite queste cose. È vero, una cosa straordinaria. Perché dentro di sé ci sono. C'è poesia. Io dico sempre, chi ama la poesia, chi ama la musica, chi ama tutte queste cose che ti risvegliano... In fondo non può essere cattivo, diciamo. È sensibile. Vabbè, Rosa, ti ringraziamo. Io ringrazio voi. Io ringrazio voi. Contiamo su altre esibizioni nel futuro. Ho passato un po' di tempo lontana da... Ma siamo qui di ma nuovo, siamo questo qui, è dai. Quello che adesso conta. Recupereremo. Ecco. Grazie ancora. E alla prossima volta. Io saluto come sempre affettuosamente col mio ciao ciao.